Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori. Quando sono le 7:33 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare, una nuova mattinata insieme fino alle 10. E subito i nostri contatti: 349-238-6666, la pagina Facebook di Si può fare, lo sapete, Si può fare trattino Radio 24. Tra poco cominciamo con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale del radio delle 8. E poi chiocciola Si può fare 24, l'account su Twitter, chiocciola Ale Maurizi, il mio account personale. Iniziamo, vai coi giornali. E allora, giornali di oggi che si occupano principalmente di alcuni argomenti: le misure varate dal Consiglio dei Ministri sulla questione dell'immigrazione, con questa specie di svolta che vuole imprimere il governo con il ministro Minniti, con nuove misure, rimpatri più veloci e anche richieste d'asilo con procedure più veloci, quindi magistrati specializzati all'interno dei tribunali su questo. Vedremo se sarà sufficiente a risolvere l'annosa questione, a migliorare l'annosa questione italiana dei flussi migratori, che nel nostro paese sono la regola. Il nostro paese è quasi l'hub europeo degli immigrati. E poi ancora, che altro? Questa specie di polemica a distanza tra l'Unione Europea che va avanti e l'Italia sulla questione della manovra correttiva. La Repubblica porta un'indiscrezione con un ultimatum europeo all'Italia, ma insomma di fatto, di sicuro c'è una specie di braccio di ferro tra il segretario del PD Renzi, il governo Gentiloni, il ministro Padoan, sulla necessità o meno di questa manovra correttiva da inserire, da introdurre, pagandola con qualche balzello, con qualche ipotesi di tassa in più, che chiaramente non piace a chi dovrebbe incassare o peggio pagare dividendi politici negativi da questa misura, cioè il segretario del PD che sta in panchina e aspetta di poter rientrare nel gioco politico appena possibile. E invece il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Ministro Padoan probabilmente non vedono altre alternative che non inserire qualche balzello per trovare questi pochi miliardi di euro in più che l'Europa ci chiede, ma che ci chiede insomma anche la matematica per far tornare i conti a fine anno. Questo è ancora un po' di strascichi sulla questione romana, dopo anche il titolo di Libero sul sindaca Raggi, la famosa patata bollente, che se non fosse un titolo offensivo farebbe anche ridere. Mi ricorda molto, lo posso dire, arrivo qualche giorno dopo tutte queste polemiche, ricorda molto mia figlia Viola, che ha 6 anni e si diverte molto a parlare di, possiamo dirlo, cacca, puzzette, pipì. Sono un po' i giochi di parole che piacciono ai bambini e che fanno anche sorridere. Poi però questo sorriso in genere ci si congela sulla bocca, perché ci rendiamo conto che si cresce, no? E questo tipo di linguaggio si lascia, si abbandona. E invece con Libero ogni tanto lo riscopriamo. Poi naturalmente giù polemiche su il sessismo, l'indignazione, che forse anche giustamente oggi Vittorio Feltri in prima pagina su Libero dice: un'indignazione alterna, corrente alternata, perché questo stesso titolo è stato usato già in passato, però nessuno se n'era accorto, e l'obiettivo, l'oggetto del titolo patata bollente era un'altra donna, in quel caso Ruby. Ma ci arriviamo tra poco, ci arriviamo. Cominciamo però con gli argomenti principali. Corriere della Sera, c'è anche la questione degli attacchi hacker presunti al Ministero degli Esteri italiano da parte di hacker dell'est, russi forse. La pista arriva dal Guardian britannico, che ha pubblicato queste notizie. Infatti Corriere della Sera scrive: Farnesina, due attacchi hacker, colpita la casella email di Gentiloni nel precedente incarico quando era ministro degli esteri. Però poi la Farnesina dice: nessun dato sensibile è stato raggiunto, infettate anche le mail delle ambasciate, la pista russa. Ma il Cremlino nega questo. C'è anche sulla Stampa: Gentiloni hackerato, accuse dalla Russia, alla Russia, scusate, il Cremlino replica falsità, rivelazioni che arrivano dal Guardian, il premier è spiato per 4 mesi quando era alla Farnesina. Vogliamo vedere per esempio sul Corriere di cosa si tratta a proposito di questa vicenda, che però dobbiamo dirlo anche, non è che ci siano grandi certezze quando si parla di attacchi hacker. Intanto possiamo immaginare che tutti i servizi segreti di questo mondo spiano, perché no, anche l'Italia, perché i servizi segreti italiani non dovrebbero tenere sotto controllo, se possibile, i propri interlocutori, avversari, nemici in politica estera. Dopodiché il Guardian se ne esce con questa notizia, citando due fonti del Ministero degli Esteri italiano che parlano di questo virus. L'unica certezza che abbiamo è un virus, scrive il Corriere, che ha infettato alcuni PC del Ministero degli Esteri, hacker piuttosto imbranati, perché non sarebbero stati in grado di acquisire nessun dato sensibile. La scoperta è stata fatta per caso quando un computer del Ministero degli Esteri è stato mandato in manutenzione. I tecnici non hanno avuto dubbi: attacco hacker. E non solo quel computer, ma l'intero sistema di gestione delle email del personale della Farnesina e delle ambasciate era infettato da almeno un anno. Sono stati gli hacker, hacker che hanno un anno di tempo per lavorare, non è male, devo dire. Il Ministero degli Esteri non ne esce benissimo se questa è una ricostruzione corretta, perché se in un anno non hanno fatto controlli sui computer possibili oggetto di hackeraggio straniero al Ministero degli Esteri, beh, qualche problema forse c'è. Però è andata bene, perché nonostante un anno di tempo questi hacker non sono riusciti appunto ad acquisire alcun dato. Tutte cose che riporta il giornale Guardian, citando persone informate dei fatti. Al momento non abbiamo altri elementi, per cui è facile per la portavoce del Ministero degli Esteri russa, Maria Zakharova, replicare dicendo: è la solita campagna mediatica dentro cui non ci sono fatti. Perché al momento fatti non ce ne sono, l'unico è appunto questo virus che ha infettato alcuni computer della Farnesina, un virus molto simile, scrive il Corriere, a quelli in circolazione nell'est Europa. Per fortuna Paolo Gentiloni per precauzione non usava account email, e infatti i giornali oggi descrivono un Gentiloni, un uomo tutto penna e inchiostro, e quindi grazie a questa cosa che probabilmente le sue email non c'erano, non contenevano alcun tipo di dato sensibile, e quindi questa hackerata, questa allegra hackerata, non ha prodotto nessun tipo di risultato. Gli altri titoli, andiamo sugli altri titoli che riguardano per esempio sicurezza, potere ai sindaci, bando per gli spacciatori, scrive sempre il Corriere della Sera, per i migranti asilo veloce e rimpatri più facili, quindi le misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri sulla questione dell'immigrazione, che sono oggetto anche per esempio del titolo della Stampa. Il piano del governo sui migranti e la sicurezza, più potere ai sindaci, ordinanze comunali contro il degrado, procedure più snelle per asilo e rimpatri. Tra i provvedimenti anche il DASPO nei confronti di chi spaccia. Il DASPO preso a prestito dalle manifestazioni sportive, cioè il divieto di recarsi negli impianti sportivi per chi ha avuto dei comportamenti contrari, insomma, alle regole, al rispetto del decoro, addirittura con condanne, eccetera. E quindi si copia un po' questa misura per applicarla nel campo del controllo della sicurezza nelle città. Infatti, leggiamo alcuni dettagli di queste misure annunciate ieri dal ministro degli Interni Minniti, che insomma da quando si è insediato ha cercato di dare su questa questione dell'immigrazione il senso di una svolta, di un'accelerazione. Più volte ha parlato della necessità di cambiare passo in Italia, non soltanto in Europa, come si dice, detto spesso, l'Europa ci deve aiutare, l'Europa ci deve dare i soldi per gestire gli immigrati, eccetera, eccetera, le quote, i collocamenti, eccetera. Qua abbiamo un ministro che dice dobbiamo rimboccarci le maniche noi, trovare delle misure nuove, più severe forse anche, in alcuni casi, per gestire questa, sì, patata bollente, sì, dell'immigrazione. E allora, espulsi dai quartieri gli spacciatori di droga. Qui siamo alla questione che dicevamo prima del DASPO territoriale, scrive appunto La Stampa. Chi deturpa zone di pregio delle città non potrà più frequentarle per 12 mesi. È uno dei 18 articoli che nella forma di un DASPO urbano concedono ai sindaci il potere di ordinanza. Non solo, vengono introdotte sanzioni amministrative da 300 a 900 euro con l'allontanamento fino a 48 ore per chi danneggia il decoro, la libera accessibilità, la fruizione di infrastrutture, luoghi di pregio artistico, storico o interessati da flussi turistici, anche abusando di alcolici o droghe, esercitando la prostituzione in modo ostentato. Quindi insomma un potenziamento di norme in qualche modo già esistenti, ma soprattutto se ti beccano a fare una di queste cose, mi sta venendo in mente un caso, no? Potrebbe essere anche semplicemente la classica pipì notturna su un monumento, ecco, se la polizia ti becca in quel frangente lì ti puoi beccare fino a 48 ore di allontanamento da quella zona e multe fino a 900 euro, ma naturalmente credo, immagino, spero anche che le previsioni siano più gravi di queste, insomma, ma l'elenco l'abbiamo appena letto. È un elenco piuttosto lungo di previsioni di piccoli reati. E poi ancora, che altro? Asilo più veloce, questo è importante, naturalmente rimpatri e lavori di pubblica utilità per ridurre i tempi delle richieste di asilo, che sono oggi circa di 2 anni. Cioè noi dobbiamo renderci conto che oggi un richiedente asilo che viene da una zona di un paese di guerra impiega 2 anni ad acquisire questo titolo, quindi 2 anni nel limbo per capire se hai diritto a uno status di rifugiato, come è giusto che sia, per un minimo di umanità, ma anche da diritto internazionale ormai conclamato da decine di anni, se non da secoli, oppure se sei semplicemente un immigrato, come viene da dire, qualunque, però non hai diritto a questo status di rifugiato e te ne devi tornare nel tuo paese. E 2 anni ci vogliono, e sono anni appunto che si dice che è troppo tempo, in questi anni però non si è riusciti o non si è neanche provato forse ad accorciare queste tempistiche. E allora cosa fa il governo Gentiloni, cosa fa Minniti per vedere se questa è la volta buona? Viene abolito il giudizio di appello nell'iter dei ricorsi, intanto, e questo è un punto sensibile, anche se immaginiamo che ci possa essere anche su questo qualche ricorso di qualche avvocato che possa giudicare, che ne so, l'ha avuto l'incostituzionale una norma che vieta un ricorso in appello, quando il ricorso in appello in Italia non si nega a nessuno. Poi vengono assunti in via straordinaria 250 specialisti per rafforzare le commissioni d'asilo. 250 saranno sufficienti, saranno tanti o saranno pochi? Punto di domanda. Andiamo avanti. Saranno create sezioni specializzate in 14 tribunali ordinari proprio per affrontare questa questione specifica della richiesta d'asilo. E i tribunali nei quali ci saranno queste sezioni specializzate sono quelli, vi leggo i nomi delle città, di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia. Contestualmente, d'intesa con le prefetture e i comuni, si prevede l'utilizzazione volontaria e gratuita dei richiedenti asilo per svolgere lavori socialmente utili. Bisogna pensare che questa è già una norma italiana, è già una legge italiana che già lo prevede. Chissà se questo decreto del governo favorirà questa ipotesi, che viene spesso poco sfruttata, sia perché magari non si trovano tutti questi volontari, ma sia perché spesso comuni e prefetture non hanno le risorse, non hanno i mezzi, perché comunque per formare dei volontari, per portarli a fare il volontariato, ci vuole qualcuno che se ne occupi, e se i comuni non hanno le risorse per tappare le buche per strada, figuriamoci se hanno le risorse per insegnare l'italiano agli immigrati e portarli nelle associazioni di volontariato. Comunque, ultimo punto che voglio leggere prima della pausa sul traffico: quanto ai migranti che non hanno titoli per rimanere in Italia, saranno creati dei centri permanenti per il rimpatrio, una struttura per ogni regione. Minniti ha parlato di un totale di 1600 posti. Questi centri andranno a sostituire i vecchi CIE. Per effettuare le espulsioni vengono stanziati 19 milioni di euro, perché anche qui lo sappiamo, in passato non c'erano i soldi nemmeno per pagare i biglietti aerei per queste espulsioni o rimpatri. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo. Allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Stavamo leggendo dalla stampa di oggi alcuni dettagli sui decreti approvati ieri dal governo in materia di sicurezza e immigrazione. Vi leggo anche velocemente il commento del sindaco di Verona Flavio Tosi, che è un po' scettico su questo. Adesso vediamo perché. Non basta, dice, servono misure più concrete. Tosi è un punto di vista interessante, perché di un ex leghista, comunque sicuramente non è un appassionato del governo Gentiloni, però non è neanche un pasdaran, dato che le sue manovre politiche lo hanno portato più verso il centro dello schieramento politico che non verso la Lega, per esempio. Lo ripeto, dice, vorrei prima leggere il testo. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una inversione di tendenza sulla sicurezza delle città, si è partiti da Maroni quando era ministro degli interni, con una serie di provvedimenti che andavano nella giusta direzione, poi però impugnati e smontati da una serie di sentenze. Ecco la paura, ecco il timore che queste norme poi vadano a infrangersi contro ricorsi, contro anche sentenze, in buona sostanza, questo non viene detto ma si intuisce, cioè si capisce, contro la magistratura, no? Un altro potere dello Stato, che è la norma, è anche giusto, è la norma, è l'equilibrio dei poteri. Viene semmai da chiedersi che senso abbia che questo scontro poi si riproponga continuamente, portando sostanzialmente molte di queste misure all'inconcludenza. Ma insomma, pensiamo al reato di clandestinità disapplicato da molte procure perché ritenuto sostanzialmente inapplicabile da certi punti di vista. Poi si è giunti, dice ancora Tosi, ad un aumento progressivo del degrado delle città causato da politiche sbagliate, ma anche dall'aumento degli sbarchi, e via andare. E poi spiega Tosi perché alcune di queste misure possono rivelarsi inutili. Ci sono casi di cittadini e di migranti che, nonostante abbiano una fedina penale lunga, ovvero risultino condannati per più reati, spacciatori, ladri, eccetera, continuano a violare la legge. Vengono spediti ai domiciliari, ma qual è il problema? Se ne fregano ed escono di casa come se nulla fosse. Poi saranno nuovamente arrestati e non si fermeranno davanti ad un altro arresto. E allora qual è l'approccio migliore? La domanda a Tosi. Sono mesi che noi sindaci diciamo di intervenire, dunque il piglio del ministro Minniti è quello giusto, ma voglio che si scoprano le carte, dobbiamo avere dei poteri effettivi. Quindi punto di vista scettico, ma aperto su queste misure del ministro Minniti. Adesso andiamo su altri argomenti, però. Repubblica, titolo principale, a centropagina, l'ultimatum dell'Europa all'Italia. Bruxelles, manovra correttiva entro il 22, scontro nel PD, Renzi chiama Padoan, no a nuove tasse. Succede che c'è questa telefonata tra Renzi e Padoan, ci sono un gruppo di parlamentari del PD che chiedono al governo di non inserire nuove tasse, il governo Gentiloni, il ministro Padoan si irrigidiscono perché dicono: cosa ci venite a spiegare a noi che siamo al governo se dobbiamo o no inserire nuove tasse? Anche perché l'Europa ci sta addosso. entro il 22 febbraio i primi provvedimenti, scrive Repubblica, o può scattare l'infrazione. Anche con tutta la buona volontà del mondo per aiutare l'Italia, Bruxelles ha bisogno di essere aiutata e per questo la Commissione chiede al Governo di approvare subito un pezzo della manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro entro 10 giorni, in tempo per il rapporto sul debito italiano che sarà pubblicato il 22 febbraio, altrimenti i negoziati si complicheranno davvero, entreranno in un terreno incognito, scrive Repubblica, dal quale Roma potrebbe uscire sotto procedura di infrazione con la sovranità economica limitata e la reputazione compromessa. Questo è lo stato dell'arte secondo Repubblica. Vi voglio leggere però anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore i titoli che riguardano soprattutto le questioni economiche. Grecia, intesa Europa Fondo Monetario sulla nuova austerity, piano di tagli a 3,6 miliardi, Atene prende tempo. Per quanto riguarda l'Italia invece notizia positiva, produzione a dicembre balzo del 6,6%. Possibile un impatto sul PIL dell'anno scorso con un rialzo dallo 0,9 all'1% del prodotto interno lordo acquisito, la crescita dello scorso anno. Di sicuro c'è che la produzione industriale nel 2016 è cresciuta dell'1,6%, un dato migliore da 5 anni a questa parte. Naturalmente ne siamo contenti, qualche segnale ogni tanto positivo dalla nostra economia, bisogna pur metterlo in evidenza. Però c'è la questione. Allora, intanto il Corriere scrive, torno sui temi politici, scrive le dimissioni di Renzi. Renzi verso le dimissioni, non farò il bersaglio per mesi, è un retroscena piccolo, ve lo voglio leggere, non ci sto a fare il bersaglio per mesi, avverte il segretario del PD con una frase riferita da Unità TV, rafforzando così le voci delle sue dimissioni dal vertice del partito per aprire la strada a un congresso anticipato e regolare i conti in casa Dem entro settembre. Sarebbe questo, secondo l'ultimo bollettino del Nazareno, la sede del Partito Democratico, la data utile per portare l'Italia al voto dopo il congresso del PD, prima della legge di stabilità dell'anno prossimo, cioè di quest'anno, che si annuncia particolarmente onerosa per gli italiani, perché abbiamo appena sentito, già si parla di una correzione necessaria da fare in queste settimane, figuriamoci alla fine di quest'anno. Elezioni italiane che in quel caso sarebbero in contemporanea con le elezioni tedesche, che potrebbero produrre forti toni anti-italiani. Devo chiudere? Avevo capito che avevamo ancora 2 minuti e invece no, dobbiamo chiudere. E allora lascio la linea al giornale radio con Si può fare, ci risentiamo subito dopo. Ciao, dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Buongiorno a tutti, eccoci qua, ciao da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini. 8:19, eccoci qua insieme per una nuova puntata di Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Carlo, Milano Monterosa? Non piove, questa già è una bella notizia e quindi speriamo che continui a non piovere dopo le pioggerelle di milanesi degli ultimi 4 giorni, direi. Ce la caviamo, ce esatto. La caviamo. La pioggia serve, ma adesso che non c'è stiamo bene lo stesso. E non me l'aspettavo in realtà, anche perché è la notizia incredibile di ieri che è stato eliminato Albano. Io penso che no, davvero? Sono andato a letto prima che dell'eliminazione. Se il paese addirittura vota Albano dopo il 16° posto, è finita un'epoca, è assolutamente finita un'epoca. Chi è che hanno eliminato oltre Albano, lo sappiamo? Hanno eliminato Giusy Ferreri, hanno eliminato Ron. È finito finita anche l'epoca di Giuseppe Ferreri, è durata un po' meno di quella di Albano. Vabbè, no, ma è diverso. No, vabbè, e Gigi D'Alessio, poi se non ricordo male. Gigi D'Alessio e Albano insieme eliminati, è davvero finita un'epoca forse, ma cioè, lo sappiamo che le canzoni eliminate, le canzoni che non hanno fortuna a Sanremo, poi sono invece quelle spesso che piacciono di più al pubblico. Vero. Era così una volta, adesso forse lo è di meno. C'è la giuria popolare che conta per una bella quota. Cari ascoltatori, anche questa mattina, come la tradizione di questa settimana, ovunque in Italia, nei bar, nelle case, ma non solo, e anche qua a Radio 24, vi chiediamo di cantare la vostra canzone di Sanremo. Non solo dovete dirci qual è la vostra canzone, ma canticchiare il motivetto se volete portarvi a casa anche oggi il premio. Lo facciamo, sempre durante la settimana di Sanremo, però quest'anno devo dire che è una cosa che è stata fatta da tutti. È stato chiesto di adottare una canzone, quindi noi ovviamente non potevamo esimerci, visto che lo facciamo da anni. Allora, la tua canzone di Sanremo, Carlo, qual è? Ce l'hai? Porca, non lo so, ne ho tante, però visto che adesso citavi canzoni che poi vanno male al festival, ma poi va bene o l'album o l'artista, ricordo Donne di Zucchero, che io col cappello di lana si è presentato sul palco, il giaccone di pelle in cerca di guai, proprio me la ricordo bene, e arrivò penultima la canzone, e invece da lì Zucchero iniziò una carriera incredibile. Cappello di lana giallo, se non ricordo male, giaccone di pelle, un vestito improbabile, è una canzone che poi segnato quasi un'epoca. Io invece ricordo Vita Spericolata di Vasco Rossi, sono quegli gigante, anni lì, gigante, naturalmente sono quegli anni lì. L'ha ricordato anche ieri Zingaretti, e ha detto quasi un augurio per tutti noi, mi associo, sono gli anni 80, i primi anni 80, ce li siamo, ricordiamo, vecchi, siamo, vorrei dire che siamo vecchi, e va bene. Dai, ascoltatori, però è l'unica cosa che invece la guardi, vedrai, ti senti meno vecchio, perché bene o male siamo lì, insomma, siamo sempre lì. Vedrai come ti sentirai meno vecchio quando chiameranno i nostri ascoltatori che citeranno Nilla Pizzi. Perché ci sono anche... e noi ne siamo felici. Siamo che e vi facciamo cantare. Vi facciamo cantare. Quindi chiamateci che vogliamo sentirvi cantare. 800 24 00 24. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Pantarei, singing in the rain. Francesco Gabbani, edizione numero 67 di Sanremo, Occidentali Scarma, una di quelle canzoni che rimangono in testa, così sembra. Sì, soprattutto la frase è rimasta, sì. Comunque vada Pantarei, così, che credo che ormai sia una frase che si dice in panetteria. A casaccio, evviva, a casaccio. A caso. Una canzone sui nostri tic alla ricerca del karma, ma anche sull'evoluzione che inciampa in qualche modo, no? E c'è in effetti un aggancio con l'argomento di cui andiamo a parlare, che è questo, perché c'è un aspetto dei progressi, dei cambiamenti che andiamo vivendo in questi anni, che viene presentato come inevitabile, ma che non appare a volte e sempre come un progresso, anzi sembra un ritorno indietro, una perdita. Parliamo dei centri di montagna, dei piccoli paesi di montagna, persone che vivono lì e custodiscono luoghi bellissimi, ma che stanno perdendo scuole spesso e ospedali per via di la razionalizzazione della spesa. Bisogna tagliare i piccoli ospedali, le piccole scuole, eccetera. Però si impoveriscono queste comunità. E allora noi ci domandiamo: ma con tutti i tagli di spesa che si potevano fare non si sono fatti? Ne cito tre, tanto per dire: gli affitti dei palazzi romani altissimi, la centrale unica degli acquisti, per cui la famosa penna comprata a Milano o comprata a Canicattì, che costa diversa, e poi le pensioni d'oro, no? Le super pensioni, non si riescono a tagliare. Dobbiamo per forza tagliare questi piccoli ospedali di montagna. Punto di domanda. Ne parliamo con il sindaco di Sondalo, in provincia di Sondrio, Luigi Giuseppe Grassi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno sindaco. L'abbiamo chiamata sindaco un po' a rappresentare un movimento di sindaci, assessori, amministratori, ma anche semplici abitanti di questi paesi, a volte di montagna, a volte anche meno, però insomma parliamo di zone disagiate da questo punto di vista, che state per lanciare un appello. Ci dice quale? Sì, il 20 di febbraio ci troveremo a Trento, dopo aver preparato questo incontro con molti amministratori della provincia e amministratori locali, per cercare di capire come si può affrontare il tema che annunciava lei, quello della sanità di montagna in generale, partendo oggi dal problema più scottante, che è quello dei punti nascita. C'è una direttiva del Ministero che impone la riduzione dei punti nascita laddove non sono raggiunti 500 parti nati. Sì, perché sappiamo che questo è uno dei punti messi sotto osservazione anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè negli ospedali dove ci sono pochi parti, si dice è meno sicuro far nascere dei bambini, perché c'è meno esperienza o cose di questo genere. Voi però che tipo, a questo punto, invece di risposta date a questa preoccupazione, e qual è il tipo di ospedali, di presidi sanitari che invece immaginate di voler difendere? Dunque, intanto io rappresento un comune dove è posto un ospedale, un grande ospedale con una tradizione importante, che non raggiunge quei numeri ma che ha uno standard di sicurezza rispetto ad altri punti sicuramente maggiore, quindi da questo punto di vista rappresenta il nostro ospedale anche un punto di riferimento rispetto a certi protocolli che possono essere determinati, assunti dalla regione in accordo con il governo. Però chiaro che lo sappiamo, lo dico per curiosità, sindaco, anche perché c'è una nostra collega, Laura Marchesi, che è di quelle zone e che ci ha parlato dell'ospedale di Sondalo come di un punto importante. Lei stessa fa riferimento a quell'ospedale, la nostra collega di via Milano. Ecco, e quindi diciamo, abbiamo informazioni da questo punto di vista. Quanti parti all'anno si fanno a Sondalo? Noi siamo intorno ai 350 parti l'anno. Quindi siete un po' sotto quella soglia di cui si parlava prima. Siamo sotto, però le ripeto, Sondalo è un grande ospedale nato come punto di riferimento nazionale per la tubercolosi, riconvertito in ospedale di carattere nazionale, dentro il quale ci sono una serie di presidi che garantiscono una sicurezza, sicuramente uno standard elevato. Quindi mi riferisco al fatto che esiste un anestesista, perché c'è proprio un reparto di anestesia, c'è l'ostetica H24, e poi sono reperibili il ginecologo e il pediatra. Quindi da questo punto di vista, con gli altri enti con i quali ci siamo confrontati, vorremmo tendere a questo protocollo, e poi grazie anche all'intuizione dell'azienda, il personale ruota sui tre punti è nascita del territorio, che sono Sondalo, Sondrio e Chiavenna, quindi c'è la possibilità di fare della formazione anche laddove i punti nascita, ecco, i parti sono inferiori. Questo è interessante, il modello della turnazione che abbiamo letto e che potrebbe essere anche un esempio virtuoso da esportare altrove, cioè medici che presidiano magari un ospedale ancora più grosso come quello di Sondrio, che però poi turnano anche negli ospedali minori. Però le voglio chiedere, anche per far capire agli ascoltatori, cosa succederebbe se, qualora l'ospedale di Sondrio dovesse chiudere, dovesse non esserci più, chi abita magari in una piccola frazione di montagna da vostre parti e deve partorire, quanti chilometri deve fare? Strade di montagna che richiedono un tempo di percorrenza anche più lungo. Si partorisce in curva, insomma. Esatto, cioè dobbiamo fare conti anche con l'alternativa. Ci fa un esempio di questo tipo per capirci? Beh, i problemi sono evidenti, insomma. Il tema che lei annunciava all'inizio, quando descriveva il vivere in montagna, che ci accomuna, è una questione che come dire, in questo momento è assolutamente trasversale, quindi accomuna regioni diverse con località diverse. È proprio un po' questo: il vivere in montagna senza una sanità di montagna adeguata, una scuola, un'agricoltura che riceve attenzione da parte di tutto il resto della nazione, diventa veramente difficile. L'abbandono delle montagne, delle terre alte, diventa inevitabile. Vivere in montagna, partorire in montagna, vuol dire, le faccio un esempio che riguarda il nostro territorio, la cittadina partoriente di Livigno, che si deve rivolgere a Sondrio, sono 70-80 chilometri, vuol dire che con le nostre strade ci si mette circa un'ora, ma questo può venire di notte, può venire con la neve, non sempre, se è un'urgenza, un'emergenza. Cioè, non mi voglio immaginare la scena a fare un'ora di strade, di curve di montagna d'inverno, certamente, magari col ghiaccio, con la neve di notte. Esatto, e poi naturalmente noi abbiamo anche, per fortuna, ci siamo dotati come territorio e siamo un riferimento regionale del sistema emergenza-urgenza con il volo degli elicotteri, ma gli elicotteri non sempre possono volare in tutte le condizioni e quindi diventa davvero difficile. Sì, soprattutto se ci sono due emergenze, nel momento che c'è un elicottero, come è successo, a finire che bisogna scegliere chi portare in ospedale. Ma in realtà se Sondrio non ci fosse, noi dovremmo riferirci a Sondrio, che è quello più vicino rispetto a Sondrio, e quindi quella stessa partoriente di Livigno dovrebbe andare a Sondrio, quindi parliamo di un'ora e mezza di strada in queste condizioni, e quindi il tema che ci si pone e che vorremmo affrontare con tutte le istituzioni, regioni e il governo è più sicuro affrontare un viaggio di questo genere oppure mettere a disposizione un presidio che sia naturalmente attrezzato e qualificato, perché non vogliamo passare per i pass d'aran che vogliono fare le difese dei presidi. Distribuire punti nascita ovunque in montagna non è sinonimo di sicurezza. Vorremmo ragionare però seriamente di questi temi. Ma infatti io quello che volevo chiedere è questo, perché secondo me il problema che voi ponete è molto preciso, nel senso che addirittura state parlando di un ospedale che si occupa di 350 nascite, quindi non di un posto dove nasce un bambino ogni due anni. E in più, secondo me, sta giustamente spiegando il fatto che cambia proprio il modo di vivere in un posto. Nel momento in cui non c'è più un ospedale, anche se qualcuno soffre di una certa patologia, non può più vivere lì e va a finire che deve andare a vivere in città, e quindi c'è lo spopolamento. La cosa che mi chiedo di fuga, la cosa che le volevo chiedere, siccome secondo me le vostre istanze sono molto precise, è se tutto questo è sostenibile, ovvero se in realtà, come mi pare di aver capito, voi avete un piano alternativo, non è che semplicemente andate lì a lamentarvi dicendo non si possono chiudere, con le turnazioni o altri metodi, dei quali infatti le vorrei chiedere, in realtà secondo voi è sostenibile, è possibile tenere aperti degli ospedali anche non con questi numeri giganteschi? Mi piacerebbe fare due piccoli riferimenti. Intanto, prego. Io sono il sindaco di un comune dove è posizionato questo ospedale, che mi verrebbe da dire, recuperando il titolo della vostra trasmissione, sanità in montagna d'eccellenza si può fare. Sono in passato, certo, quando si è riconvertito, ha deciso di puntare molto sulle alte specialità, è diventato un ospedale di riabilitazione con tutte le alte specialità, la neurochirurgia, la chirurgia vascolare, e allora, mi riferisco agli anni 70, 75, 80, quando cominciavano ad esserci tutti questi investimenti su questo ospedale di montagna, qualcuno guardava questo processo come se fossimo dei matti. In realtà la dimostrazione che si può fare è che quell'ospedale è diventato, per esempio, sull'attività dell'ortopedia, un punto di eccellenza di riferimento nazionale. Abbiamo un'unità spinale, quindi per tutta la riabilitazione dei pazienti che sono paraplegici, di riferimento nazionale. Quindi in questo caso sulla montagna abbiamo vissuto un processo al contrario, cioè i cittadini della pianura che venivano a curarsi in montagna e fare la riabilitazione. Quindi si può fare. È chiaro che occorre programmarle queste attività, non si può fare ovunque, non si deve fare senza avere un piano di intervento, però occorre mettere delle risorse. Questo è diciamo così l'esperienza, insomma, che porterò a Trento insieme ai miei colleghi. Mi sembra di aver capito, sindaco, che voi chiedete attenzione per un modello come per esempio quello di Sondrio, che ha raggiunto un compromesso, un equilibrio tra un ospedale, un presidio sanitario di montagna, ma anche un ospedale di una certa dimensione, quindi continuiamo noi nella nostra battaglia, certo, all'atera, quella dei puntinari, continuiamo a fare, perché in questo momento abbiamo un grosso diatriba con l'azienda sanitaria che parrebbeci di voler trasferire la neurochirurgia, che è nata a Sondrio ed è riferimento per tutto il territorio provinciale, lo vorrebbe trasportare a Sondrio in una logica di razionalizzazione, come diceva lei, o di... Assolutamente. Quello che ci premeva raccontare era la vostra storia, portare all'attenzione, non siamo esperti di questioni sanitarie naturalmente, quindi lasciamo che poi gli esperti, le autorità sanitarie, i ministri, le ASL, ma anche i sindaci, insomma, si occupino di questo. Speriamo che ci sia un dialogo. Quello che ci interessava era portare all'attenzione degli ascoltatori questo tema, anzi agli ascoltatori ascoltatori chiediamo all'800 24 00 24 se chiudere gli ospedali di montagna si può fare, si deve fare, o se si può trovare un modello alternativo che tenga in vita dei presidi sanitari in questi luoghi, dove vivono persone che custodiscono luoghi bellissimi come sono le montagne, dove poi andiamo durante la stagione a fare il turismo. Se questi posti si spopolano è un male, è un peccato per tutti naturalmente. Ci tengo solamente a precisare che in realtà non sono solamente i luoghi di montagna, perché fra questi comuni che lottano tutti insieme, per dire, faccio un esempio, c'è anche Portoferraio, che è sull'isola d'Elba. È vero. E nomino questo ospedale perché sono stato curato lì una volta che ero all'isola d'Elba e mi hanno curato benissimo, e ricordo molto bene il fatto che nel momento che mi stavo andando il medico e l'infermiera che mi hanno detto: ma ci faccia sapere poi come va a finire, perché uno poi a un certo punto sono tornato ovviamente a Milano, e loro dicono: noi siamo qua e non ne sappiamo più niente. Però persone bravissime, ipercompetenti, e ovviamente che il 15 d'agosto ti fanno anche un attacco. E quindi grazie al sindaco di Sondalo Luigi Giuseppe Grassi, buona giornata. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ha convinto la richiesta, l'appello del sindaco di Sondalo? Chiamateci, noi siamo qua, e chiamateci anche per canticchiare la vostra canzone di Sanremo preferita, perché si fa così, perché vogliamo sentirvi cantare, che è sempre bello cantare, e chi ci convincerà di più si porterà a casa anche oggi un piccolo premio. Abbiamo scelto di Charles Bukowski, Musica per organi caldi, tanto per restare in tema musicale, un libro di racconti e di organi del maestro Bukowski. 800 24 00 24 vi aspettiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Andrea che ci chiama da Firenze. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per la chiamata. Buongiorno. Niente, volevo intervenire sul discorso dell'ospedale di Sondalo. Sì. Solamente per insomma farvi, cioè, se voi guardate su una cartina, Sondalo serve non solo, diciamo così, la zona limitrofa, ma sono una marea le valli che affluiscono, diciamo così, a Sondalo da un punto di vista strategico. Infatti è un ospedale di una certa dimensione, sì, non è piccolissimo. Infatti poi serve tre comprensori sciistici importanti, e tenga conto poi una persona, cioè, una dove donna ci si fa male giustamente anche. Il discorso anche della neurochirurgia, io credo che sia nata anche per poter ovviare a problematiche anche d'urgenza legate a determinati incidenti, e tenga poi conto che una donna che sta a Santa Caterina Valfurva, che è sopra Bormio, ci vuole mezz'ora solo per arrivare a Bormio, poi per scendere giù fino a Sondrio sarebbe una cosa impossibile. Io penso effettivamente, come ha detto lei prima, se si potesse risparmiare di più sulle pensioni d'oro e dare qualche soldo di più a questi centri, non faremmo poi male. È un qualche modo, per un qualche punto di equilibrio, penso che vada trovato. Insomma. Temo che le due cifre siano molto distanti, quello che serve per la sanità è molto di più di quello che si risparmierebbe con le pensioni d'oro. Non lo so. Penso tipo con 6 zeri. Non lo so. Ho visto certe cifre di pensioni d'oro che fanno veramente paura. Comunque, Andrea, grazie per averci chiamato e aver detto la tua. Nicoletta da Latina, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Volevo cantare una canzone. Evviva! Ah, però di Sanremo, di Sanremo ovviamente. Sì, un pezzettino però, Sì, no, beh, tutta no, perché insomma... Beh, sentiamo. Sentiamo magari, come va. Vai. Che importa se... per innamorarmi ancora... tornerai... maledetta primavera... Eccola. Va bene Nicoletta, sei partita. Per innamorarmi basta. Non si ferma più. Un'ora. Cioè, le stavamo... Che fretta c'era. Ecco, questa l'hai presa bene. Primavera. Che fretta c'era. Lo sappiamo io e te. Brava Nicoletta, brava, l'hai voluta cantare non fino in fondo. Fare, perché? Come se non volevi giustamente far sentire tutte le tue abilità canore, perché questo musica è giusto così per divertirsi. Giusto, giustissimo. Lo volevi a tutti i costi, musica per organi caldi. Charles Bukowski, complimenti, ha cantato abbastanza bene, tra l'altro. Assolutamente. Ma ci stavi chiamando da un telefonino o da un telefono fisso? No, da un telefonino. Ah no, perché mi immaginavo questa cornetta che si allontanava. Tipo microfono. Sì, però va bene, sì, anche con, certo, il telefonino si può che fare, anno giustamente. Era, che anno era? Oddio, non ricordo, forse l'82? Stiamo andando tutti in quegli anni lì, comunque, anni sì, 80. Purtroppo stiamo... Non siamo di primissimo pieno. Questo denota diciamo l'età. Siamo i veri Sanremo, va, perché ora, oramai c'è ben poco. Vabbè. Stavamo. Adesso c'è ben poco? Non ti è piaciuto il festival di quest'anno? Ma ogni tanto guardavo, ma l'ho trovato 81. Di una noia. 81. Chiedo scusa, 81, maledetta primavera. Ah, 81, bene, quindi non mi sono distanziata di molto. No. No, dicevo, non davvero mi sembrano canzoni tutte uguali, l'ho visto appena qualcosa... Ma mi sono molto annoiata. Vabbè, non ce n'era neanche una che ti piaceva, Nicoletta. Sarà la vecchiaia. ma che sei giovanissima, che vecchia sei. Ma penso che siamo coetanei, quindi non siamo tanto giovani. Sì, però non possiamo neanche parlare di vecchiaia, perché sennò non buttiamoci giù così, Nicoletta. No, anzi. Senti che bella voce squillante. Per cantare Maledetta Primavera, insomma, ce ne vuole di giovinezza nel cuore. Brava, complimenti. Grazie, okay. Nicoletta. È la nostra prima, il nostro primo intervento canoro della mattina. Brava. Lei il libro se l'è già portato a casa, già vinto, perché è quella che ha rotto il ghiaccio. 800 24 00 24. Vi aspettiamo tra poco con Rossano Ercolini per festeggiare 20 anni di raccolta differenziata. Run Baby Run, The Garbage, un gruppo che ha scelto come nome, quindi questa parola, hanno scelto di nobilitare questa parola. Per farsi spazzatura. Scegliere da noi, tu dici, spazzatura. E salutiamo Rossano Ercolini, ciao Rossano. Buongiorno, ciao. Ben ritrovato. Buongiorno. Un grande buongiorno. Abbraccio ovunque tu sia in giro per la penisola a perorare la causa di Zero Rifiuti. Rossano Ercolini lo conoscete, insomma, della rete Zero Rifiuti, il leader del movimento Zero Rifiuti. 20 anni fa, Rossano, il decreto Ronchi che ha dato il via a questa rivoluzione della raccolta differenziata. Se pensiamo oggi che si buttava tutto in discarica o si bruciava nella migliore delle ipotesi, ed peggiore... era solo 20 anni fa, sì, non 5.000, è semplicemente una follia pensare questa cosa qua. Voi 20 anni fa eravate, tu in particolare, già nel pieno delle vostre battaglie, possiamo dirlo, siete stati degli antesignani sicuramente di questa svolta. Che ricordo tu hai di quel momento lì nel 97 quando venne approvato questo decreto? Ma era proprio il momento in cui la battaglia contro l'inceneritore a Capannori era allo zenith, cioè era al massimo, e quindi abbiamo vissuto intensamente il dibattito intorno alle valutazioni, ai commenti, anche ai dettagli previsti da questa nuova normativa, che come tutte le normative aveva un po' una doppia, triplice faccia, degli aspetti sicuramente positivi come l'imposizione di obiettivi minimi di raccolta differenziata, certo, al 2003, il 35%, che detto adesso sembra pochissimo, però ma per ai l'epoca, tempi, sì. Però per l'epoca era sicuramente una rivoluzione copernicana, perché comunque oltre allo smaltimento imponeva l'attuazione di quelle che poi verranno chiamate le buone pratiche. C'era poi È stato un po' un momento nel quale una norma è venuta, come dire, a coprire, a mettere anche un po' un cappello, a coprirvi le spalle su quella battaglia che inizialmente sembrava una battaglia, come tante, di ambientalisti non vogliono l'inceneritore, gli ambientalisti del no, eccetera, eccetera. Poi dopo abbiamo capito, si è scoperto che voi portavate anche delle proposte, no? Importanti, che poi sono le buone pratiche, quelle che poi si sono affermate in questi anni. In quel momento questo decreto, come dire, vi veniva incontro un po' anche alle vostre istanze. Sì, da un lato veniva incontro, però dall'altro in realtà è da lì che parte tutta questa stura alla cosiddetta termovalorizzazione, perché giustamente si prevede di passare dalla gestione impattante delle discariche tradizionale, sì, rovinosa, ad un'alternativa impiantistica che punta sugli inceneritori. Quindi cioè in realtà dalle discariche, però si andava nella direzione di raccolta differenziata da un lato, ma anche di incenerimento. Anche perché possiamo dire, Rossano, che a quell'epoca lì pensare di quelle montagne di rifiuti che c'erano, di poter arrivare come oggi siamo arrivati in alcune città, per esempio a Capannone, oltre l'80% di raccolta differenziata, poteva sembrare utopico. Quindi ricorrere agli inceneritori sembrava una cosa di pragmatismo, invece voi avevate visto più lungo, possiamo dirlo? No, ripeto, apparentemente può sembrare contraddittorio, ma in realtà noi, appoggiandoci agli aspetti positivi dell'obbligo della raccolta differenziata, riuscimmo a promuovere una terza via che ci liberasse da un lato dall'imperativo delle discariche e dall'altro dalla padella perché possiamo ricordare una cifra: dal 9% di raccolta differenziata eravamo all'epoca, adesso siamo arrivati a una media del 47%, una media... adesso siamo, diciamo, nell'anno in corso abbiamo superato il 50%, forse siamo sopra il 50%, quindi battiamo la Gran Bretagna, siamo terzi in Europa, siamo diventati bravi, stiamo tallonando la Germania, quindi la Germania ragazzi, se talloniamo la Germania vuol dire che stiamo veramente forti. Però c'è un punto, no, Rossano, è ancora una realtà a doppia faccia, molto mi verrebbe a dire differenziata, se non fosse un gioco di parole un po' stupido. Cioè al nord e nel centro andiamo molto bene, ci sono realtà al sud però che stanno ancora abbondantemente sotto il 30%, la Sicilia, la Calabria per esempio. Perché secondo te c'è questo divario? Intanto questo è vero, diciamo, nel messaggio fondamentale è vero, il nord è avanti, il sud è indietro, però poi se lo andiamo a scandagliare abbiamo la Liguria che è nel nord che lavora malissimo, a bassissimi livelli di raccolta, e abbiamo invece la Campania, la vituperata Campania, che supera nettamente la Toscana, che veniva un po' il modello toscano, veniva un po' anche sostenuto con forza appena una quindicina di anni fa, quando proprio era in partenza lo stesso decreto Ronchi. Quindi il sud ha gli elementi per poter affermare: attacchiamoci alle buone pratiche, assumiamo come locomotiva molte aree della Campania, la provincia di Salerno, il comune di Salerno, Benevento, Avellino, sono realtà virtuose. Ovviamente Napoli è una realtà più complicata, ma anche questo stereotipo nord virtuoso e sud diciamo tendenzialmente un po' sporcaccione, ormai il problema vero qual è dal mio punto di vista? Ecco, il problema qual è? Perché oggi, se dovessi dire una legge, una svolta che ci vorrebbe oggi, un decreto Ronchi ma anche meglio di oggi, per diventare da bravi bravissimi, quale dovrebbe essere secondo te? Andiamo a vedere come si sono evolute le buone pratiche, quindi i risultati eccezionali, la provincia di Treviso, tutto il Veneto, sono quasi 4 milioni di abitanti, il Veneto supera abbondantemente ormai il 73% di raccolta differenziata. Se andiamo a vedere, le buone pratiche si sono diffuse dal basso, o perché c'erano sindaci illuminati, o perché c'erano comitati, associazioni, movimenti che hanno spinto. Non è mai stato guidato in un processo verso le buone pratiche dal centro. Quindi da bisogna Roma, incentivare le buone pratiche dei territori, partire dal basso. Perfetto, è avvenuto questo. Oggi ci vorrebbe una normativa con relativi anche stanziamenti, con relativa diciamo così disponibilità, supporto, servizi, dobbiamo però chiudere, di expertise, perché andasse avanti la politica rifiuti zero, comunque la politica delle buone. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Miau. si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Benvenuti di nuovo, 800 24 00 24, vi aspettiamo e cominciate a intonare i vostri motivi, le vostre canzoni di Sanremo, perché stamattina vi chiediamo di cantarle insieme a noi, pochi secondi, e chi ci piacerà di più si porta a casa dei graditi omaggi. Sottolinei pochi secondi perché c'hai paura, sì, di qualcuno che ci canta tutta. No, se stonate vi bagniamo subito, perché sennò non ce la possiamo fare. E allora, nella settimana tra l'altro di Sanremo, incontriamo una donna di spettacolo che tra l'altro Sanremo lo ha condotto. Anche lei non era una velina, quest'anno non ci sono veline. Ballette. Veline, non importa, il senso è quello. In questi giorni tra l'altro esce il suo libro, che è un inno al si può fare, e noi non potevamo non invitarla. Il libro si chiama Mai all'altezza, come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice. Veronica Pivetti, buongiorno. Buongiorno. No, ciao. Non sono una velina, non ho più l'età per buongiorno. Vabbè, ma insomma non lo eri nemmeno nel momento in cui sei stata sul palco di Sanremo, perché sei andata per le tue qualità, no? Non lo eri nemmeno quando avevi l'età. Esatto. No, sì, esatto. Lo intendiamo in senso riduttivo. Nel paleolitico. Che anno era il tuo Sanremo con Raimondo Vianello? Era il primo. Nel 98. Era il primo, bravo. Era il primo. Gino Latilla. Nel 98. È già passato tutto sto tempo. Mamma mia. Lo so. E ma quindi ne avevi ancora qui a rompere. E ci mancherebbe altro, perché in realtà avevi 4 anni, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Esatto. Allora, tra l'altro quel si parla molto di Rai Mediaset, no? che quest'anno c'era Maria De Filippi e la compagnia di amici, però già nel 98 Raimondo Vianello era un uomo Mediaset e faceva il festival, quindi era un po' un'anticipazione forse di questa cosa. Sì, ma sono quelle sono tutte chiacchiere, dai, sì, sono tutte chiacchiere. Senti, allora, questo libro è un libro autobiografico, ottimista, ma passando per alti e bassi, no? Perché soprattutto per bassi. Soprattutto, infatti, il titolo è una sorta di ossimoro, mai all'altezza, quindi si parla di altezza, però poi in realtà non ci sono mai all'altezza. Si passa soprattutto per bassi, perché io penso che sia importante. A me ha divertito l'idea di scrivere questo secondo libro, mi è piaciuto, sì, mi ci sono appassionata molto, e mi sembra che sia importante raccontare quanto tutti noi, perché tanto non scappa nessuno, non ci sentiamo mai all'altezza, o comunque sicuramente in certe cose non all'altezza. Cioè abbiamo un sacco di turbe, ce le portiamo nello zaino che ci teniamo, certo, per tutta la vita. Il più delle volte queste cose nascono nella prima infanzia, nell'adolescenza, che sono i momenti proprio tumultuosi per eccellenza, e uno deve farci i conti, per cui siccome tutti dobbiamo fare i conti, e tante volte molta gente nasconde le proprie debolezze e fragilità, non bisogna nascondere le fragilità, bisogna scandagliare. È sbagliato, conoscerle, bisogna... perché da lì tu dimostri col tuo libro che è molto proprio giusto, affrontandole, conoscendole. Tra l'altro, il libro proprio inizia, perché altezza non è una parola usata a caso, no? No. Perché tu eri la bambina più alta di tutti, con le mani più lunghe, con i piedi più lunghi. Coi piedi, anche adesso. Era un motivo ovviamente di frustrazione quando eri bambina. Certo. Però mi è capitato di fare questo collegamento, perché qualche sera fa, adesso tu eri bambina qualche anno fa, diciamo così, sì, certi stereotipi ci potevano essere, però siamo ancora lì. L'altra sera a Sanremo, Carlo Conti e Maria De Filippi, tutte e due non particolarmente altezza me, dalla sì, loro rassicurante statura media, sì, avevano ospitato due giocatori di basket, un uomo, ecco, e una donna, un ragazzo e una ragazza, e giù battute, come si sta, com'è il tempo lassù, ma quanto sei alto, non è cambiato nulla, siamo sempre non è cambiato lì, nulla, ma guarda che la mano sinistra era la mano del diavolo, i mancini hanno avuto una vita in inferno e spesso ce l'hanno ancora. Cioè, quello che è drammatico è che certi canoni, che non sta scritto da nessuna parte che siano giusti, sono considerati la normalità. Chiunque esca da quei canoni è anormale, e questo lo dico, io ho raccontato nel libro tantissime mie anormalità, quindi spero veramente di incontrare persone che hanno voglia di dire le loro. Io adesso sto promuovendo questo libro in giro per l'Italia, faccio tanti incontri e un sacco di gente, sì, anche a me mi è capitato quello, oh, e diciamo, vedi, è liberatorio. Ho letto infatti, sarà che sono anch'io in giro da un anno e mezzo a presentare il mio libro, e ho letto una cosa molto bella che hai detto, dicendo: mi piace il rapporto con la gente, le presentazioni dei libri sono sempre interessanti, c'è uno scambio, la gente ha fame di ascolto. Siccome vivo la stessa cosa ed è incredibile che uno fa delle presentazioni e le persone non vogliono andare via, io all'inizio pensavo semplicemente perché era finalmente uno spettacolo gratuito, invece non è quello il motivo, è proprio, no, il fatto che hanno bisogno. Scambio, esatto, c'è uno scambio, ma è troppo importante. Noi viviamo in un mondo dove lo scambio c'è, virtuale, no? Siamo sempre, siamo, io non sono manco capace perché c'ho un telefono da 49 euro e quindi non fa le cose che fanno gli altri telefoni, cioè il mio telefono telefona, ha questa caratteristica, fa quello e basta, però è un continuo scambio, ma è uno scambio secondo me estremamente fasullo. Invece lo scambio deve essere autentico. Io, il motivo per cui ho scritto questo libro era perché volevo mettermi un po' in piazza, ma non perché abbia avuto una vita particolarmente interessante, ma proprio per questo, perché siamo tutti uniti nell'aver avuto un sacco di piccoli traumi, certo, piccole, che però sono stati magari determinanti per noi, la battuta detta, la battuta sbagliata del genitore in quel momento, l'amica che ha detto una cosa appunto sgradevole, quello che hai il sentito dire, ecco, ci hanno formato quelle cose, e la vita è tutta una battaglia per reagire negli anni successivi a quei cose, momenti. Pensate a quanto possono essere considerati, ricordati come episodi banali, privi di significato, certe cose che accadono quando siamo bambini. Invece, certo, hai ragione, crescono dentro di noi, e se non ci ripensiamo, se non li affrontiamo, se non li raccontiamo, sì, diventano dei veri e propri mostri giganti. Prima però la nostra personalità, ma prima di raccontare perché... sì, Veronica, perché poi nel tuo libro c'è l'incendio, ci sono tante cose, certo, la tua casa. Voglio fare un appello a te e a Carlo: quando fate le presentazioni dei vostri libri, non fate come Fedez, perché oggi sulla prima pagina di Repubblica c'è la storia drammatica di un bambino che è andato a farsi fare l'autografo sul libro da Fedez, sì, ma lo staff gli ha imposto di non firmare i libri, per lui non può firmare fogli di carta, e quindi perché? Lui non può firmare, e il bambino si è andato via in lacrime, ha scritto delle lettere, ma oggi avevano paura che il bambino è una storia, esatto, che il bambino fosse un assicuratore, forse che gli stava vendendo, esatto, una polizza, esatto. Guarda, ma ecco, allora io dico, sì, lancio un appello soprattutto a quelli che hanno detto a Fedez di non fare questa cosa, che hanno rovinato un bambino, non sì, si fa, esatto, non si fa, perché troppe cose che considera, sai, noi adesso diciamo vabbè, una sciocchezza, quando siamo piccoli le cose piccole sono grandi. Ma poi, la risposta che ha dato Fedez è incredibile. È lo staff che ha stabilito che io posso firmare solo i CD comprati quel giorno lì nello store, ma non il libro. Vabbè, ma perché, insomma, lo staff Fedez deve decidere lui? Facile, è troppo facile entrare in polemica in questo, nel senso che succede quotidianamente. Io tutte le volte, certo che firmo anche un foglio di carta, ci mancherebbe altro, nessuno è obbligato a comprare il libro. E mi interessava... a me mi è capitata una cosa abbastanza che mi ha messo anche in imbarazzo, perché una ragazzina è venuta e ha detto: io non ho comprato il libro, ma me lo fai lo stesso un autografo? Ho detto: ma stai scherzando, me te ne faccio 10. Esatto, è lo stesso che mi capita tutte le volte. Devo dire che, visto la tua risposta, io non sono così critico sui rapporti sui social. Tu giustamente dicevi sono relazioni fasulle, però condivido in pieno, perché io penso invece che siamo tutto il giorno sui social, molto spesso a incontrarci, però c'è il bisogno di incontrarsi fisicamente, c'è quasi un bisogno di abbracciarsi, no, anche a queste presentazioni accade questo. No, sono d'accordo. Infatti, per carità, io non voglio fare neanche una polemica trita, vecchia, no, ma ci mancherebbe, contro i social, non ci penso neanche, anzi, benissimo, esistono, io posso non frequentare tanto quella roba lì, ma non è che una cosa che non faccio io non mi piace, non la faccio perché non sono neanche tanto abile, guarda, perché non sono all'altezza neanche in quel caso, per cui va benissimo. però dico solo che oltre a quel tipo di incontro bisogna stringersi una mano. Esatto. E non voglio essere retorica neanche questo. No, no, è vero, sono, è vero. Forse lo sono. Ma lo scambio di dove ci si guarda, sì, negli occhi, si dice, cioè, quando arrossisci è bello. Ah, bello. Cioè, allora, fra l'altro, cosa, fammi ricordare questo. Oggi presentazione a mezzogiorno a Roma, alle 12. Certo. Quindi chi ci sta ascoltando può venire. Dove? Ricordalo tu? Sì, ai Granai, ad una enorme libreria, ecco, ai Granai. Perfetto. E adesso non mi chiedere la via perché non no, lo so. Vabbè, insomma, libreria Granai a mezzogiorno a Roma. Però resta con noi, Veronica Pivetti. Sì. Vi facciamo una piccola pausa per il traffico. Torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9:19 minuti di nuovo. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati. Siamo in compagnia di Veronica Pivetti, autrice di Mai all'altezza, come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice. Veronica, il tuo libro inizia in realtà con il dramma che ti è accaduto. Viva per miracolo dopo un incendio, casa tua distrutta. E la cosa che mi ha colpito è la telefonata del tuo amico che ti dice: beh, in fondo ti sei liberata di tante cose. E tu invece, inutile, e tu invece di strangolarlo, perché è una roba così, dici: ma in fondo non ha tutti torti. No, allora sì, è ovviamente una sintesi, però sì, questo lo spiego bene nel libro. Io penso che naturalmente tu dici: noi ci possiamo liberare delle cose in eccesso anche buttandole via. Errore, perché noi non buttiamo via niente. Per cui non buttiamo via non solo le cose alle quali siamo giustamente affezionati, ma neanche quelle che ci rompono i coglioni, chiedo scusa. Stai parlando con un accumulatore compulsivo, quindi quando io ho letto la questione dell'incendio ho sofferto, credo, più di te, perché proprio sono stato lì e ho detto: perdere tutto, ma com'è possibile? Perdonami, allora, non volevo interromperti. No, ma hai ragione, ma tutti mi dicono questo. E se tu mi dici lucidamente: sei contenta di liberarti di tutto in un'ora? No, la risposta è no, naturalmente. Io ancora soffro di cose che ho perso, naturalmente, perché veramente è sparito tutto nel giro di un'ora. Ma comunque ti dico che ho capito perché, non è che lo condivida, ma ho capito perché più di una persona mi ha detto: certo, tu adesso ricominci. Cioè, la bellezza di ricominciare, cioè, non di cominciare, perché cominciare la vita la cominciamo tutti, ma di ricominciarla è diverso, soprattutto a un'età, insomma, quando sei grande. Io ho 49 anni quando è successo, quindi ero veramente molto grande. Allora, io non difendo questo, perché poi non è stato manco di buon gusto dire: beh, certo, come ti invidio, tu puoi ricominciare. Ovviamente. Però diciamo che ho capito perché noi, che siamo così aggrappati alle cose che abbiamo e continuiamo a accumulare, perché guarda che continuiamo, sì, ad accumulare, e non ci liberiamo neanche delle cose brutte, delle cose rotte. Allora, forse bisogna, io sono stata obbligata, no, a ricominciare, perché non potevo non farlo. E allora ti dico che ho trovato una chiave. Non piangere, basta. Era un modo per trovare una cosa bella all'interno di una cosa drammatica. Certo, ma certo, certo. Senti, ti faccio sentire un audio. Ce l'abbiamo questo audietto qua, lo riconoscerai. Fosca allunga di 7-8 cm il passo perché non si allunissono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Vabbè, cioè, questo è Viaggi di nozze, perdone, col tic non mi disturba affatto. Non mi disturba affatto. E invece lo disturbavo, perché ti comunico, in quel momento stavamo andando a sposare all'altare. Però era bella, perché era il 95, sono andato a rivedere l'anno. Sì. E quasi era un antesignano di cioè un'anticipazione, esatto, di quello che poi è successo adesso, con i telefonini, esatto, che sono dappertutto. Esatto, ma io guarda, io penso che quando mi hanno detto, ed era appunto il paleolitico, che sarebbe nato un telefono che tu ti potevi portare dappertutto, ho detto: va bene, abbiamo svoltato, finalmente, quando è che arriva? E quindi, e lo dico ancora, lo dico ancora, naturalmente. Poi, naturalmente, c'è la degenerazione. Se noi viviamo per quella cosa lì e solo grazie a quella cosa lì, secondo me è pericoloso, nel senso che poi il telefono è utilissimo, ma tutto quello che si è portato appresso è anche molto pericoloso, va gestito, ci vuole, cioè tutto va fatto pericoloso. Prima bisogna pensare. Beh, e vero, poi bisogna fare, in sì, linea di massima, secondo me. Senti, pensare è utile. Abbiamo detto di Vianello, adesso Verdone. Ti sei divertita di più con Verdone, Viaggi di nozze, con Vianello a fare il festival, o con il grandissimo Gigi Proietti a fare il Maresciallo Rocca? Guarda, domanda tu impossibile. Sai, no, non è, sì, ovviamente è una domanda impossibile, però siccome tu sai che io faccio anche la serie della Prof, dove, certo, mi divido fra due uomini, questi sono tre, ne aggiungo uno, va benissimo. Io non ho io non scelgo, io tengo i piedi. Settima stagione, anche se sono tra l'altro due in molte scarpe. Settima stagione, sto girando la settima serie che andrà in onda a settembre, ma insomma una cosa per volta, il libro Ma invece di tua sorella nel libro a un certo punto dici, la descrivi come una musona, perché dici, mentre io non mi ricordo se guardavi i cartoni animati o che cosa stai facendo, lei sicuramente stava scrivendo o studiando matematica, no. Politica, filosofia, no, cioè già da bambina allora, musona mai, lei non è mai stata musona, sì. Tu leggi bene il pezzo e non dico affatto, la descrivo come una impegnata, lei impegnatissima, io ero una buzzurra e lei era impegnatissima, questo è poco ma sicuro, ma era una persona, era la classica leader, cioè quella che capeggiava la banda di maschi, io invece una specie di invertebrato che si buttava di qua e di là, perché poi in realtà io ero una, apparentemente tutti pensano che io sia una allegrona, sì lo sono anche, ma poi ho anche ovviamente come tutti i miei lati oscuri, certo. Poi sono anche una sociale, non sono manco tanto capace di crearmela la compagnia di amici, non l'ho mai avuta infatti. E ne hai parlato nel primo libro tra l'altro anche di tutto questo. Esatto, per cui siamo al secondo, adesso aspettiamo il terzo. Una sociale che quando però in compagnia è molto socievole. Mai all'altezza, come sentirsi sempre inadeguata, vivere felice, un inno al si può fare, non potevano essere con noi stamattina. Grazie Veronica, un grazie grande mille. Abbraccio. È sempre un piacere, veramente. Ciao. E ricordiamo l'appuntamento allora in carne e ossa live oggi a mezzogiorno alla libreria Granai, via Rigamonti a Roma, con Veronica Privetti alla presentazione del suo libro. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattine su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Emergency dei Pegboard Nerds, è una canzone che ci è stata suggerita da Giuseppe su Facebook. È il nostro Si può fare in musica, come voi sapete noi siamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se siete dei compositori, dei cantanti, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, beh vi chiediamo di segnalarcela, di comunicarcela, così noi la faremo sentire e la metteremo sui nostri siti e i nostri account social. Come fare per inviarci i vostri Si può fare in musica? Alla nostra mail si può fare @radio24.it oppure appunto sui nostri account di Facebook si può fare /radio24 oppure di Twitter @si può fare24 oppure sui nostri due account personali, il mio è @CarloGabardini. E il mio è @AleMaurizzi. Fra l'altro, Carlo, ci siamo dimenticati con Veronica Pivetti di citare la notizia importante della settimana, che è questa: il Sustainable Development Solutions Network, organismo delle Nazioni Unite, che ha rilanciato anche quest'anno la classifica, il rapporto annuale sulla felicità nei vari paesi del mondo. Danimarca ancora il primo posto, Italia 50esima, siamo a metà classifica, siamo messi così un po' tristanzuoli, molto male siamo messi. E quindi questo inno un po' anche a vivere felici nonostante le proprie inadeguatezze di Veronica Pivetti ci stava. Però la cosa bella è che secondo certi studi in Danimarca il segreto della felicità si chiama hygge, Ughe. E sarebbe quel senso di calore che provi da bambino e poi riconosci come casa, come famiglia, cioè quell'ambiente caldo, di accoglienza, e dove anche le tecnologie, anche le piccole cose, perché è il fatto di ritagliarsi un momento per se stessi, sì, oppure leggere sul divano un libro mentre bevi una tisana, oppure rilassarsi mentre si ascolta la musica preferita. Quindi anche piccole cosine e quel senso appunto di famiglia, di casa, di calore. Esattamente quello che, torno al libro, Veronica Pivetti racconta nel suo libro a un certo punto che è lì che sta sorseggiando una tazza di tè la sera o di camomilla sul terrazzo di casa sua e dice: come sono fortunata, che bello, che bel momento. Il giorno dopo poi gli scoppia l'incendio in casa, ma questa è un'altra storia. Certo. È storia vera. 800 24 00 24, vogliamo anche le vostre prodezze canore nella settimana di Sanremo. Emanuela da Verona, buongiorno, benvenuta. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno. Complimenti. Vai. Per la vostra trasmissione. Grazie. Siete in gambissima. Beh, insomma, ci proviamo. Emanuela, tu sei in gamba anche tu, sì? Insomma, non sono mica una ragazzina io, sono matura. Va bene, ma ti ho mica chiesto se... di tenermi su, dai. Va bene. Per cosa hai chiamato, Emanuela? Volevi cantare? Ho chiamato per una canzone che ha segnato un momento importante della mia vita. Nel 67, l'anno che vedeva i miei preparativi per il matrimonio, sì, e difatti quest'anno l'anno prossimo sarebbero stati 50 anni, sì, c'era una canzone che mi ha colpita di Orietta Berti. Vuoi intonarla? Vuoi intonarla? Però noi te lo diciamo subito, se vai fuori dal canone noi dobbiamo bannarti. Ecco, fatemi quando vedete che comincia. Davide abbastanza. Buttati. Io, tu e le rose, io, tu e l'amore, quando tu respiri accanto a me, solo allora io mi sento di essere viva, quando siamo io, tu e le rose. Brava Manuela, io questa canzone non è che l'abbia proprio a mente, devo dire la verità, stupenda, con grande franchezza, però secondo me sei stata intonata, e quindi complimenti. Questa complimenti. Del 66, Sanremo del 66, te l'ho detto Carlo che noi che ci sentiamo vecchi per le canzoni dell'83, è così, è tutto un gioco, capito? È tutto relativo, e adesso arriveranno quelle degli anni 50. Grazie Emanuela, un abbraccio. Grazie mille. Complimenti per il tuo ricordo personale, la vigilia del matrimonio nel 67. Beh, potrebbe essere i miei genitori, in quegli anni lì si sono sposati. Vedi quanti ricordi con Sanremo, eh? Vero, vero. Enrico da Milano, Enrico Ferrazzi però, che è anche il direttore del Buzzi, dell'ospedale Buzzi di Milano. La maternità del Buzzi di Milano. Grazie per aver fatto nascere mie due figlie, tra l'altro, tutte e due lì, Viola e Olga. Fantastico, grazie. Immagino la chiamata per... tutto bene. Sì. Per la chiacchierata, per l'intervento del sindaco di Sondolo, perché noi lavoriamo anche con la Regione Lombardia come comitato punti nascita, e quello che volevo rassicurare è che innanzitutto Sondolo è uno dei punti nascita che stanno a cuore al sistema sanitario regionale, quindi è uno dei punti nascita che rimane aperto, perché Già questo possiamo dire. Questo bene, è una buona notizia. La Regione Lombardia ha solo 8 piccoli punti nascita sotto i 500 parti. Ad alcuni, ad esempio, come dicevano, quest'anno c'era un punto nascita di 400 e un punto nascita di 350, sono stati uniti e ne è diventata una bella sala parte da 1000 parti. Sono tutti contenti, ok? Tra l'altro un'unione tra privato e pubblico, cioè ospedale privato accreditato chiuso, ed è stato messo nel pubblico, ok? Quindi questo è quello che la Regione Lombardia ha fatto, non solo adesso, ma da 20 anni. Infatti, sui 155 punti nascita in Italia sotto i 500 parti, la Regione Lombardia ne ha soltanto 7, di cui 4 montani che rimangono assolutamente aperti, perché naturalmente non si possono fare. Questa devo dire che è una buona notizia dal direttore del Buzzi, che è un'eccellenza assoluta a Milano, ma non solo, per quanto riguarda la natalità. E non era concordata questa telefonata, testimone. Assolutamente no, e quindi grazie Enrico. È importante perché altrimenti dà la sensazione di una regione che anziché voler mettere in ordine la sicurezza delle persone vuole risparmiare. Qui non si tratta di risparmiare, se a Vigevano ci sono due punti nascita a 2 chilometri di distanza, che senso ha?

Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Complimenti, Crowd Me Up torna la settimana prossima, grazie anche ai nostri giurati. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, ci abbiamo in sospeso Antonio da Napoli. Antonio? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che, credo, e complimenti. Grazie. Grazie. Che credo che voglia anche lui canticchiare, eh? La canzone sarà... Vorrei dedicare questa canzone Passerà di Alejandro Baldi. A chi? Appunto Passerà. Tutti i giovani, mi permetto... Volevo dire, sentite le parole, volevo dire queste, a tutti i giovani laureati, sì, che non trovano lavoro. C'è un messaggio sociale quindi in questa, sì, sì, in questa interpretazione. Vediamo se questa carica sociale poi viene sostenuta anche da un'adeguata interpretazione canora, Antonio, perché se stoniti banniamo subito. Vai. Okay. Passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va. Beh, diciamo che sei andato abbastanza bene, Antonio. Eccola. Passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì. Ricordate Alessandro Baldi, toscano. E quindi questa è la canzone. Io questa canzone, devo dire la verità, non me la ricordavo per niente. Io adoro Bukowski. Bravo. Vale vincere. Vabbè, un omaggio oggi a chi ha cantato. Devo dire che non siete in molti che vi siete buttati, quindi un omaggio lo facciamo a tutti. Antonio, però devi chiudere dicendo che anno era, più o meno, te lo ricordi? 1994. Non vinse, ovviamente, e quindi per questo è una grande canzone. Con la risposta così precisa, come se neanche fossimo un quiz, direi che è tutto perfetto. Non vinse, come si classificò a questo punto? Se sai anche questa, ti regalo tutta, c'è il rischio a tutto, tutta poi, la libreria, tutta la libreria, oltre che il libro. Allora posso dire una cosa, sono una cavica perché non ho avuto tempo di andare a cercare proprio la classifica, vi chiedo scusa. Ma figurati, Antonio, sei stato bravissimo, sei stato bravissimo. Bravo Antonio, grazie. A un applauso. Buona giornata. Hai vinto anche tu. È una guerra ogni giorno, ogni istante che ti volti, qualcuno cerca di fotterti. Ci sono più regole, la parola d'ordine, tutti contro tutti, belli contro brutti. Gli stadio che pure sono andati a Sanremo tante volte con questa tutti contro tutti, perché è questo un po' lo scenario del tutti contro tutti. Parliamo della diatriba sull'utilizzo della lingua italiana in declino, come dicono, come ha detto un primo appello di intellettuali, la lettera dei 600, perché hanno notato che molti studenti universitari ai primi anni di università non sanno scrivere, fanno errori da prima elementare. Oppure, come ha detto un altro appello, un controappello, non è vero che l'italiano è in declino perché è sempre più usato e ci sono indicazioni che ci fanno pensare in maniera più ottimistica. Chi potevamo noi convocare per risolvere questa diatriba? La Crusca! E allora è con noi il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Buongiorno. Allora, dobbiamo essere ottimisti o pessimisti? Perché qua sono proprio due tesi, due mondi che si confrontano. Comunque, intanto, comunque sia, non è in crisi la lingua italiana, semmai sono in crisi gli studenti universitari. però questa è una bella sofisma. Però è molto giusto, sfumatura. Perché effettivamente non si capisce nella seconda lettera dove dicono comunque l'italiano è molto studiato, ma non è la questione della prima. La questione della prima lettera è gli studenti italiani parlano male l'italiano e la risposta della seconda è c'è più italiano in giro nel mondo, scusi, prego. Sì, ma è certo, questo è un dato di fatto, l'abbiamo visto negli Stati Generali, la quarta lingua studiata, 2 milioni di studenti all'estero, ma è un altro discorso. Il documento del 600 evidentemente è una reazione scocciata di professori universitari che si sono stufati di fare i maestri elementari o i professori della scuola media. E tra l'altro alcuni, se mi pare la reazione di Cacciari, che dice: i miei studenti naturalmente scrivono bene perché io ho studenti selezionati, però i miei colleghi no. Poveretto che non ho tanti studenti selezionati neanche di normali, qualche volta sono costretto anch'io a togliere qual è con l'apostrofo, a mettere le virgole, la punteggiatura, aggiungere l'H, un grande problema. No, l'H magari no, fino all'H non ci si arriva. Però le virgole sì, le virgole, i punti virgola, le l'insistenza a fare quelle che sono anticipazioni, la dislocazione a sinistra, dico noi linguisti, cioè il libro l'ho visto, la bibliografia l'ho studiata, che è un modo, i linguisti dicono, è un modo di messa in evidenza dell'oggetto, però quando diventa costante, cioè uno scrive sempre solo con la messa in evidenza, c'è da dire: senti, metti un po' meno in evidenza, un po' tranquillo. Senta Marazzini, le faccio sentire, perché abbiamo un alleato in questa nostra battaglia per difendere l'italiano e valorizzarlo sempre di più, sentiamo questo zucchero. L'importante è riuscire ancora finché capo, se continuerò a avere delle idee per la musica, cantata in italiano, per fare un culo così agli anglosassoni e agli americani, che dicono che la musica rock è di loro appartenenza, è nata con loro. Sì, il blues è nato da loro, ma non è necessariamente, devi essere americano o inglese per fare del blues, o per avere il blues dentro, o rock and roll dentro. Oh, finalmente qualcuno dello Star System che è orgoglioso di utilizzare l'italiano. Tra l'altro Zucchero è famoso nel mondo, canta quasi sempre in italiano, ogni tanto ci butta lì delle parole, però Marazzini, fa piacere. Tra l'altro, lei ha ascoltato Sanremo? Ha visto qualche canzone? No. Ecco. Adesso, ero in treno ieri sera, non potevo, sono arrivato tardi. Devo dire una cosa, che al di là di Zucchero, non si deve giustificare, no, ci mancherebbe altro. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, vedetela, dico io la banalità: noi vorremmo che questo italiano, che si parla sempre di più, si scrive sempre di più nei social network, ci sono più persone che vanno all'università, fosse usato sempre meglio, sempre bene, e non che siccome si usa di più si usa sempre peggio, che è un po' quello che sta succedendo. Senta il testo di questa canzone, però, Bianca Azzei, che io devo dire, non è sbagliato, ma è proprio, secondo me, la povertà linguistica, mi perdoneranno gli autori, però devo dirlo: voglio soltanto dirti questo, che mi... no, aspetta, un altro: ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola. Ora, mia figlia ha 6 anni, però i suoi piccoli componimenti in alcuni momenti forse sono più complessi di questi. Cioè, poi avevamo Battiato, Dalla, De Gregori, erano linguisticamente pochino più articolati, o no? Sì, vabbè, naturalmente adesso non bisogna prendere per tastare il polso la situazione dell'italiano, prendere soltanto testi di canzoni di Sanremo, insomma. Lo so. Quindi, cioè, è facile per lei, dice, le canzoni di Sanremo sono sempre state così. Ci sono tanti livelli nell'uso della lingua, quindi a uno spettacolo popolare di largo consumo si deve concedere di più, per esempio, rispetto a quello che si concede alle tesi degli studenti universitari, su cui sono intervenuti 600, no? Piuttosto per il tema dell'inglese, che lei diceva, il documento dei 600, anche se contiene probabilmente delle esagerazioni, per esempio l'esagerazione maggiore secondo me è il processo fatto ai maestri, come se fosse tutta colpa dei maestri, una cosa veramente un po' No, vabbè, non buttiamo la croce tutta addosso ai maestri, questo no. Ma invece la colpa di chi è? Tra i maestri e la tesi di però allora la colpa, di chi è giustamente, Carlo? Per esempio, uno dei meriti è che ha attirato l'attenzione sull'importanza dell'italiano. Vabbè, si è riaperto un po' il dibattito su questo. Va bene, Marazzini, noi dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarci. Grazie per essere stato con noi. Attendiamo una posizione ufficiale della Crusca, che pure arriverà su questa questione. Però fatemi dire, la canzone di Gabbani, in cui siamo partiti, Occidentali Scarma, un applauso a lui per aver usato una delle parole un po' più difficili. Non esiste più una nuvola, non se ne può più della nuvola. Perché basta dire Pantarei, allora la canzone migliore si dice nuvola. No, non condivido. Cari ascoltatori, ci risentiamo domani col Si Può Fare, 8:30-10. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Lucella in regia. Un grande abbraccio, un saluto da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, ciao. E a chi ci ascolta in podcast.